Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Che cos'è l'arte? E soprattutto, come comprendere un'opera d'arte contemporanea senza pensare «questo potevo farlo anch'io»? È il 1917, quando Marcel Duchamp rovescia un orinatoio, lo chiama fontana e lo espone a New York. L'idea di partenza è semplice, si prende un oggetto qualsiasi che appartiene al mondo del quotidiano e lo si sposta in un contesto che non è quello originale, cambiando di colpo il suo significato e rendendolo incomprensibile. È lo spiazzamento dello spettatore su cui si fonda l'arte del ready-made, del già pronto. Da questo momento in poi, dopo l'esperimento di Duchamp, il valore del lavoro dell'artista non consiste più nel fare l'opera, ma nell'annullare i significati sedimentati degli oggetti per invitare chi guarda a trovarne di nuovi. È una sfida comunicativa perché chi osserva adesso è chiamato a contribuire alla costruzione del senso tanto quanto l'artista. Il divertimento, dunque, è interpretare le cose da un'altra angolazione. Ma se tutti lo possono fare, perché qualcuno è artista e gli altri no? Perché l'artista l'ha fatto al momento giusto e per la prima volta. È l'idea che sta alla base a fare la differenza. Per questo si parla di arte concettuale. Bruno Munari, grande protagonista dell'espressione visiva del XX secolo, ha sintetizzato il tutto con poche parole. Quando qualcuno dice «questo lo so fare anch'io», vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe già fatto prima. Non ci deve essere un'arte staccata dalla vita, cose belle da guardare e cose brutte da usare. L'arte contemporanea lancia messaggi precisi. Se i tagli di Fontana rappresentano il superamento del passaggio dalla superficie alla rottura della superficie, le tele bianche di Robert Ryman riflettono sul vuoto e sulla noia, sul nulla della nostra società. Damien Hirst espone una vera mosca in ali e cartilagine su una tela, perché disegnarla non serve più, ci pensa già la fotografia. Mentre il dito medio di Maurizio Catelana davanti alla Borsa di Milano esprime un'opinione piuttosto chiara. Insomma, non si tratta più solo di tecnica realistica, ma soprattutto di provocazione. Naturalmente non senza divertenti equivoci, come quello messo in scena da Aldo, Giovanni e Giacomo in uno dei loro sketch più riusciti. Ma sei scemo, Giovanni? Sei cretino? Hai rovinato una scultura di Cristallone! Non lo sapevo! Questa è una scultura di Cristallone! Ma se non sai neanche chi è, ma già la scusa! Ma questo è il maestro del distrutturalismo! Mia nonna ne ha a casa due uguali, pensavo che fosse... Ma Giovanni! Ma questa non è una sedia comune! No! Questo è il concetto di sedialità che il maestro Cristalloni ha voluto rappresentare estrapolando la sedia dal contesto abituale in cui solitamente sta, in una misera cucina, ed elevandola ad universale! Non lo sapevo, già! Cristalloni! Ti sei seduto sul concetto di Cristalloni! A parte che Cristalloni pensavo fosse uno della Lega io. Ma che Lega? Cristalloni insieme a Joslin, Gogard, alla corrente del distrutturalismo. La corrente è alternata. Questo è bello. Nella sua semplicità. Questo è iperrealista. E se me lo concedi monocromatico. Sì. L'artista è Meteor. Meteor, già Meteor. Sentito. Meteor. È famoso, Meteor. Uno dei più... Cosa? Meteor. Questo dico, questo Meteor. È bello. Questo è estintore? Sì, dico, sei ispirato un estintore per... No, questo è un estintore, punto. Raggiungi alti livelli di concentrazione. Assisti ad una spiegazione e ne alteri il contenuto. È arrivata una primavera, si va a un concerto e ci si perde. Il primo protagonista dell'incontro di oggi è un uomo che nell'arte contemporanea ha lasciato una traccia indelebile. Chiudete gli occhi e pensate a quelle donne dai volti affusolati e dai colli lunghissimi. Sono il suo inequivocabile marchio di fabbrica. Morto a soli 36 anni in assoluta povertà, incompreso e maledetto, il suo nome è Amedeo Modigliani. Amedeo Modigliani. Impossibile condensare in una sola parola l'anima di Modigliani, ma la figura che di certo lo rappresenta meglio è quella del dandy. Lord Brummel, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, Jean Cocteau, essere dandy significa vivere all'insegna dell'estetica, vivere la propria vita come fosse un'opera d'arte. Lo scrittore Giuseppe Scaraffia individua nello snob l'esatto opposto del dandy, perché mentre il dandy ridicolizza la società e da essa vuole distinguersi, lo snob cerca a tutti i costi un posto nell'elite. Lo snobismo nasce dalla democrazia. Voi sapete che nell'ancien regime tutti i ruoli erano perfettamente definiti, cioè voi potevate, guardando una persona, sapere a che classe sociale apparteneva. Un finanziere, anche se era ricco, non poteva mai indossare il velluto, che era degli aristocratici. Un nobiluomo di toga non poteva portare la spada come i nobiluomini di spada. Un cortigiano che non saliva sulla carrozza del re non poteva avere il talon rouge, il tacco rosso. Arriva la democrazia e tutti tendono a imitare, ma non tanto, ecco, questo è importante, non tanto le classi al potere, che spesso, come abbiamo visto con Napoleone, sono delle classi recentemente costruite, sono dei parvenu, ma tendono a imitare la società di un tempo. Lo snob è sempre nostalgico, guarda sempre indietro. La dottrina dell'eleganza, della finezza, dell'originalità tocca tutti gli aspetti del quotidiano, ma si lega principalmente al linguaggio e all'abbigliamento. Il dandy ha un look ricercato al limite dell'eccentrico, cammina con classe, sceglie con cura maniacale le parole che usa. Lo snob, per la sua ascesa, si omologa, mente a se stesso, passa sopra a tutto e a tutti. Il dandy invece si considera unico, il centro dell'universo. Prendendo spunto dal dizionario dello snobismo, scritto da Philippe Julien nel 1958, l'art director Angelo Bucarelli recupera questi due profili. Dandy e snob sono due cose certamente opposte. Il dandy è qualcuno che in persona, come in una performance di body art, la sua vita nell'eccentricità e nell'eccellenza della diversità, e quindi è complessa e solitaria. Lo snob è un finto, uno che cerca di far passare se stesso per quello che non è, con la presunzione di inventarsi qualche cosa di superiore al proprio essere. Il tutto in un teatro sociale. Amedeo Modigliani ama vestirsi con il velluto a coste molto larghe. Sotto la giacca mette il panciotto e a tutto questo abbina pantaloni verdone scuro, marrone o beige. Il suo stile è bohemien, simile a quello di altri intellettuali, ma unico nel suo genere, è raffinatissimo. La signorilità l'ha imparata in casa, nella famiglia di origine ebraica nella quale nasce, a Livorno, nel 1884. Prima di lui ci sono già Emanuele, Margherita e Umberto. Mamma Eugenie li adora tutti, ma per il piccolo Amedeo, detto Dedo, nonostante i suoi capricci, ha una vera preferenza che non nasconde nel suo diario. Dedo è viziato, ma è un amore. È un bambino bellissimo, ma è così impegnativo. Il suo carattere non è ancora abbastanza formato perché io possa esprimere un'opinione chiara, ma si vede già che è molto intelligente. Più avanti scopriremo che cosa c'è in quella crisalide. Forse un artista? I Modigliani all'inizio sono benestanti, perché benestanti sono i nonni sia materni che paterni. La tavola è sempre imbandita e la casa brulica di domestici, ma il prezzo da pagare è un padre sempre in Sardegna a gestire gli affari che ruotano intorno a legname e carbone. Lo si vede solo una settimana a Pasqua e un paio d'estate, almeno finché l'azienda va disgraziatamente in bancarotta e tutti si devono adeguare al nuovo stile di vita, di profilo decisamente più basso. Amedeo è cagionevole di salute, contrae diverse pleuriti e a 17 anni accusa una deficienza polmonare notevole che lo porterà a contrarre la tubercolosi. Per questo motivo, con il fisico minuto così debilitato, non può andare a scuola e deve studiare da solo. Di certo, la sua infinita curiosità lo aiuta. Passa le giornate immerso nei libri, assiste e partecipa ai discorsi degli adulti che lo interrogano volentieri, si avvicina alla poesia e soprattutto a Dante. Gli piace la sera guardare il nonno Isaac che accende il camino e ascoltarlo seduto sul tappeto nelle sue speculazioni filosofiche. E poi disegna. Disegna su qualsiasi cosa, anche con un piccolo bastoncino di legno nella ghiaia, su un pezzo di muro in fondo al giardino quando nessuno lo vede, sui fogli lasciati in giro da papà al ritorno dai suoi periodi lontani. Tra lo stupore dei parenti, riempie pagine e pagine di schizzi e di ritratti di chiunque incontri. Mamma Eugenie, donna che dall'essere sempre sola ha imparato una forte indipendenza, ha una mente aperta e brillante, tanto che quando Dedo, durante un violento delirio di una febbre tifoidea, esprime il desiderio di intraprendere la carriera artistica e di evitare il liceo, lei non si scompone. D'altra parte, la sua posizione sulle istituzioni è molto chiara. Siamo in piena crisi da esami e concorsi. La metà del genere umano passa l'anno in rassegna in alcuni periodi e questo mi sembra uno dei risultati più stupidi della vita moderna. Amedeo inizia a frequentare l'atelier di Guglielmo Micheli, a sua volta allievo di Giovanni Fattori, pittore di fama internazionale. La corrente che l'ha reso celebre è quella dei macchiaioli. Nel 1856 a Firenze, i giovani frequentatori del caffè Michelangelo in via Cavour, punto di ritrovo degli artisti della vicina Accademia, capiscono che è il momento di confrontare i loro lavori con ciò che sta succedendo in ambito europeo e soprattutto con quanto di più aggiornato si fa in Francia. Da qui nasce un movimento moderno di ribellione politica e sociale. Per la critica, l'accentuazione del chiaroscuro per stabilire il valore strutturale della luce e del colore influenzerà la disciplina che ha rivoluzionato negli anni a venire il mondo dell'arte, e cioè la fotografia. Gli Alinari, fondatori a Firenze della più antica azienda fotografica nel 1852, erano tra i maggiori mecenati dei macchiaioli toscani, una delle più originali avanguardie del XIX secolo. Le due arti si incontrano, si influenzano, non ancora si mescolano, ma dialogano attorno a ciò che maggiormente hanno in comune, l'oggetto della loro ricerca, la poesia della luce. La pittura è arte della mente, la fotografia dell'occhio, ma dov'è il confine? Fermare un'immagine attraverso un processo chimico, le luci e le ombre del bianco e nero, il dibattito era vivacissimo tra i pittori dell'Ottocento. Una fotografia, ormai un prezioso documento storico, che ritrae insieme Fattori anziano coi baffi a manubrio. Micheli imbarazzato e Dedo eccitato dall'idea di entrare in quel mondo, anche se ancora non ha dipinto ufficialmente la sua prima tela. Educato, coltissimo, razionale, gli si rimprovera di mettere prima il cervello e poi il cuore. Ma il rovescio di questa medaglia è che si impara più in fretta, e non solo l'arte, anche la vita. Modigliani comincia a frequentare i bordelli con assiduità. Non può più fare a meno del tabacco e delle donne. Si forma in questo periodo il suo spirito bohemien, la sua dedizione all'arte, ai piaceri e alla vita notturna. Modigliani, dal corpo fragile e l'anima eternamente irrisolta, è un vero dandy. Noi artisti abbiamo dei diritti diversi dagli altri. Non dobbiamo consumarci nel sacrificio. Il dovere reale è di salvare il sogno. Dobbiamo abituarci a mettere i nostri sogni estetici al di sopra dei doveri degli uomini. Tra il lavoro in atelier e i vizi notturni, Modi, così iniziano a chiamarlo gli amici, è ammalato un giorno sì e uno no. Il medico, che non sa più quali medicine somministrargli, gli consiglia di farsi un bel viaggio verso sud per rilassarsi e trovare un clima migliore. Lui decide di approfittare dell'occasione per scoprire le bellezze artistiche del nostro paese. Lo zio, il fratello di sua madre che lo considera come un figlio, promette da Parigi di accollarsi tutte le spese. Prima Roma e poi Napoli, tappe fondamentali di qualsiasi tradizionale grand tour, ispirano ad Amedeo schizzi e suggestioni che mette nero su bianco in un intenso carteggio con l'amico Oscar Ghiglia, anche lui allievo di Micheli. Cerco di formulare con maggior lucidità possibile la verità sull'arte e sulla vita che ho raccolto nelle bellezze di Roma. Cercherò di ricomporle con la mia intimità e di tirar fuori da tutto questo la mia verità sull'arte e sulla vita. Nell'arco di qualche anno, Amedeo peregrina per la penisola, indugiando nei luoghi che più lo conquistano, Napoli, Amalfi, Capri, Roma, per approdare infine a Firenze, dove si iscrive alla scuola libera di nudo dell'Accademia di Belle Arti. Ma la frenesia di un animo inquieto non si può fermare. Modì vuole scoprire il mondo, e per lui la pittura non è soltanto un'urgenza personale, ma anche il modo più bello attraverso il quale guardarlo. Si trasferisce a Venezia e anche qui frequenta l'Accademia di Belle Arti. L'ambiente è stimolante, vivo, vibrante, soprattutto in occasione della Biennale, quando gli artisti si fermano a lungo per allestire le loro opere, curiosare tra quelle degli altri e dare vita al dibattito tra i tavolini dei bar che si affacciano sui canali della città lagunare. Modigliani è aperto alle nuove tendenze, scopre la pittura impressionista e, come in un colpo di fulmine, se ne innamora perdutamente. Loro hanno capito che non c'è bisogno di rivolgersi sempre alla storia e di rifugiarsi nella leggenda. C'è la bellezza davanti ai nostri occhi, non nel cervello, ed è quella che dobbiamo ritrarre. Stare nel presente. Questo significa essere moderni, non cercare il sogno, ma la verità. Occuparsi di ciò che è vivo anziché di ciò che è morto. L'Inghilterra è un paese meraviglioso, ma non fa per Modì. Ci fa un breve viaggio, attraversa le sue campagne e i suoi villaggi con i cottage dal tetto di paglia. Ma non c'è il fervore che sta cercando, quel fervore che invece c'è a Parigi. Gliene ha parlato suo zio, che ci vive, e anche molti dei suoi amici, che ne hanno fatto una tappa dei loro viaggi. Parigi è il luogo magico dove succede tutto. È lì che ogni artista può tentare la fortuna. A un punto della mia vita ho capito che a Parigi avrei trovato tutto quello che cercavo in giro per il mondo, perché tutto il mondo era lì. Quando ho detto alla mia famiglia che sarei partito, non si sono scomposti, perché forse, in fondo, se lo aspettavano. Ero così eccitato, ho messo le poche cose a cui tenevo in una valigia di cartone, che a malapena reggeva, e sono andato alla stazione. Ho preso un biglietto di sola andata, e dopo un po', con un libro in mano, mi sono addormentato. Al mio risveglio ero nella Ville Lumière, di cui tanto avevo sentito parlare, e non mi sembrava vero. A Parigi siamo nel pieno degli anni folli. La Belle Époque dura dalla fine dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale e diventa il simbolo storico di quella leggerezza che si respira dai bistrot ai lampioni Liberty. La vita appare in questo periodo più facile e sorridente di sempre. Le macchine a vapore rendono efficienti treni e navi. Molte linee ferroviarie sono già elettrificate. Attraverso le onde radio e poi quelle telefoniche è possibile una comunicazione in tempo reale. E il cinema, grazie ai fratelli Lumière, comincia a intrattenere il pubblico. Parigi è diventata il centro della cultura e del divertimento, grazie a quelle grandiose vetrine che sono le Esposizioni Universali. La prima viene organizzata nel 1889 per celebrare il centenario della Rivoluzione ed è in questa occasione che viene inaugurata la Tour Eiffel. Di giorno creatività e tecnologia, di notte la follia. A Pigalle, il quartiere malfamato ed eccitante di prostitute e gioco d'azzardo, sorge il mitico Moulin Rouge con il suo tradizionale e mai dimenticato cancan. Il cancan divenne un ballo simbolo, allegria e lussuria, spensieratezza e perdizione. Sulle note di Offenbach, le ballerine con le gonne ampie che mostrano le calze autoreggenti vengono ritratte dal pittore Henri de Toulouse-Lautrec. Piccolo, affetto da nanismo, geniale e da tutti conosciuto come l'anima di Montmartre, immortala nei suoi dipinti, tra fumo e assenzio, il mondo dei bohemian parigini, quel mondo di cui adesso anche Modì fa parte. Al numero 13 di Place Émile Goudeau, collina di Montmartre, c'è uno stabile che funziona come una specie di comune per artisti squattrinati. Ed è qui che anche Modì decide di stabilirsi. L'ambiente è spartano, mancano gas ed elettricità, l'acqua arriva solo al primo piano. E gli appartamenti hanno delle pareti divisorie così sottili che d'estate manca il respiro per il caldo ed inverno si battono i denti per il freddo. Ma tutto questo si può passare sopra di fronte agli stimoli che possono offrire coinquilini come Georges Braque, Max Jacob, Henri Matisse, Pablo Picasso. Modigliani osserva e si lascia influenzare, ma intanto sviluppa uno stile unico. A dipingere è velocissimo. Completa un ritratto in una o due sedute e una volta che ha finito non fa mai ritocchi. Chi posa per lui prova una sensazione unica, è come farsi spogliare l'anima. Ma essere geniali a volte non basta. Sei un quadro con sfondo un po' astratto, ogni ogni tratto un colore mai esatto. C'è un momento di distrazione, di strada percorsa scaldata dal sole. C'è il segreto chiuso mai aperto, la mia anima disfatta nel letto. Ma vivi solo se il mio corpo si offre a te. Hey tu, comprami, poi consumami, infine gettami. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nei primi anni del Novecento e un giovane Amedeo Modigliani, magro e dalla salute cagionevole, è arrivato a Parigi da Livorno per fare l'artista. Più precisamente, è un pittore. Fa disegni, schizzi e ritratti fin da quando è bambino, mentre la scultura è una passione che è stato costretto a reprimere fin da quando, durante un viaggio a Pietrasanta, patria dei marmi michelangeleschi, si è accorto di essere incompatibile con quel mestiere per via del contatto con le polveri sottili. Non solo. In fondo pensa che la pittura sia molto più vendibile e facile da gestire rispetto all'altra disciplina. E così la scultura rimane un rimpianto, un desiderio che ogni tanto affiora nella mente complessa di Modì quando si rimprovera di non averci provato abbastanza. La scultura mi ha sempre attratto come qualcosa di fisico, corporeo, qualcosa di molto più carnale della pittura. La scultura ha il fascino del divino, perché puoi plasmare delle creature. A Parigi, Modigliani, squattrinato e dall'indole bohemien, vive in una specie di comune, in un palazzo di Montmartre, che divide con i più grandi artisti di inizio secolo. L'ambiente è spartano, privo di qualsiasi comodità, e lui è costretto a vivere alla giornata. Si mantiene regalando ai proprietari dei bistrò disegni e schizzi. Loro accettano, non è l'unico a farlo in cambio di una minestra calda, ma ancora non possono neanche lontanamente immaginare di avere in mano qualcosa che un giorno raggiungerà quotazioni da capogiro. L'esistenza di Modigliani è sregolata, dominata dall'alcol, dall'assenzio, dalle donne. Per lui non arriva mai un riconoscimento, mai una soddisfazione, mai la possibilità, al contrario degli altri, di farcela con il suo lavoro. Tanto che quando la frustrazione prende il sopravvento e la malinconia si fa pesante, decide di ritornare in Italia. È il mio maledetto occhio d'italiano che non riesce ad abituarsi alla luce di Parigi. Una luce così avvolgente, riuscirò mai a coglierla? Non si possono immaginare i nuovi temi che ho in mente in viola, in arancio, ocra scuro, ma forse sono tutte fesserie. Non ci siamo. La mia roba sembra Picasso, ma è venuto male. Picasso prenderebbe a calci questo orrore. Al debole di costituzione e dandy per vocazione Amedeo Modigliani, artista maledetto, anticonformista e antiborghese, eternamente in bilico tra genio e sregolatezza, la patria non offre granché, soprattutto se paragonata ai fasti di Parigi. Resta quello il luogo ideale per cercare fortuna. Modigliani ci riprova, questa volta nel quartiere di Montparnasse. Si sono spostati tutti qui, nella parte meridionale della Rive Gauche, e si ritrovano a bere e chiacchierare alla Cloiserie de Lia. Ci passano Zola, Cézanne, Baudelaire, Verlaine e moltissimi altri, mentre gli artisti del Bateau Lavoir si incontrano nei martedì della Cloiserie. Modigliani viene spesso accompagnato da Paul Guillaume, il giovane ambizioso gallerista che è stato introdotto nell'ambiente delle avanguardie dal geniale poeta Apollinaire. Non ha ancora compiuto 23 anni quando Modì, ancora sconosciuto, decide di ritrarlo in quello che diventerà uno dei suoi più celebri dipinti. Guillaume crede in Modì quando nessuno lo fa, si fida del suo talento e dimostra di avere il grande intuito del mercante che vede dove gli altri non arrivano a vedere. Tra i due nasce una profonda amicizia e una collaborazione d'affari grazie alla quale, finalmente, il pittore può trovare una relativa serenità finanziaria. Non è molto, ci sono i soldi solo per le necessità primarie, ma almeno non fa più letteralmente la fame. Il fumo, i discorsi filosofici e la droga, le notti scorrono veloci nelle strade illuminate di Montparnasse. C'è sempre un personaggio strambo che racconta qualche avventura surreale e arricchisce con qualche nuovo aneddoto il bagaglio di storie di chi lo sta ad ascoltare. Moody, quando arriva, lo si sente da lontano, per via della tosse cronica che lo accompagna fin da quando era bambino e che certo non gli serve da deterrente alla vita sregolata. Un giorno, mentre stanno passeggiando e conversando, il suo mercante Paul Guillaume si ferma di colpo davanti a un atelier. Non è un caso esserci passati. Era da molto che Guillaume voleva portare lì l'amico, perché quell'atelier lo conosce bene. Il giovane si avvicina al vetro, appoggia la fronte e deve fare scudo con le mani perché con il riflesso del sole non si vede niente. Poi fa un cenno con il braccio. È un saluto all'artista che dentro è concentratissimo sul suo lavoro. Entusiasta, prende per un polso Modigliani e lo trascina nello studio. Modigliani, di fronte a quel gusto per l'astrazione che non aveva mai visto prima, resta a bocca aperta. Quell'uomo, che indossa un camice per non sporcarsi mentre lavora, sta per dare una svolta alla sua esistenza. Il suo nome è Constantin Brancusi. Constantin Brancusi. Pestisani, Romania, è il piccolo paese di neanche 3.000 anime che ha dato i natali a uno dei più grandi scultori del Novecento. È il 1876 e lo Stato si è appena formato dall'unione tra il Principato di Moldavia e Valacchia. Ma bisognerà aspettare la fine della Prima Guerra Mondiale perché vengano inglobate Transilvania, Bukovina e Bessarabia. Sentivo i discorsi dei grandi che parlavano della storia del nostro paese. Era molto importante impararla e mio padre voleva che anch'io lo facessi. Io ovviamente ubbidivo, ma quello che mi importava veramente era uscire a giocare nei prati. C'era una natura meravigliosa intorno alla nostra casa. La quiete bucolica presto si scontra con le urgenze di un ragazzino curioso che viene a conoscenza del mondo soltanto attraverso i libri. Compie i primi studi d'arte alla Scuola d'Arte e Mestieri di Craiova e poi, quando non basta più, studia all'Accademia di Belle Arti di Bucarest. L'esperienza è entusiasmante. Non è un caso se il nome della capitale risale a quello di un pastore d'origine albanese chiamato Bukur, che in lingua albanese significa bello, bellezza. Bucarest, non solo etimologicamente, può essere tradotto come città della bellezza. La sua popolazione, durante la seconda metà del XIX secolo, cresce molto rapidamente. L'architettura stravagante che oggi sempre di più attira i turisti di tutto il mondo si è ritrovata ad accogliere un ambiente culturale vivace e cosmopolita, ricco di stimoli e di occasioni di incontro. Presto viene chiamata Parigi dell'Est, proprio perché ricorda il clima della Ville Lumière nei suoi anni folli. Ma qui però il rovescio della medaglia è che le differenze sociali tra un crescente ceto agiato e la massa di poveri continuano ad aumentare. Io ero fortunato, perché avevo dietro una famiglia che mi aveva permesso di fare il bambino quando era il momento e poi di studiare quando ho espresso questo desiderio. Era così anche per i miei amici, molti riuscivano anche a viaggiare, ma non per tutti i nostri coetanei, perché c'era chi per mangiare doveva rubare. Dalla Parigi dell'Est alla Parigi vera, il passo per Brancusi non è così breve. Sa che quello è il suo obiettivo, perché è lì che succede tutto. Ma prima lavora tra Austria e Germania, a Vienna e a Monaco. Quando approda all'École des Beaux-Arts, il vantaggio è che rispetto a molti dei suoi colleghi si è già fatto le ossa sul campo, mettendo in pratica quella teoria che, letta nero su bianco, appare sempre meravigliosa, ma che nella realtà si scontra con i problemi concreti che non si possono imparare sui libri. Le teorie sono esposizioni senza valore. Ciò che conta è l'azione sola. Barba lunga, capelli scompigliati, fascino del saggio anche quando ancora non ha l'età per esserlo. Constantin Brancusi, anche da lontano, non perde mai contatti con la sua amata terra. Almeno una volta l'anno torna a casa, ed è moltissimo se si considerano i mezzi di trasporto di 100 anni fa. Con lui vanno a est le sue sculture dai tratti unici. La sua arte si evolve negli anni, cambia come cambia ognuno di noi crescendo, sviluppando una visione diversa della vita, delle cose e degli altri. Brancusi passa da una fase antinaturalistica e antiromantica per poi orientarsi verso una stilizzazione estrema delle forme. Linee sottili, simmetriche, quasi prive di profondità. Al contrario della ricerca che ci sta dietro, una ricerca di purezza, a cui si perviene attraverso la progressiva eliminazione degli accessori esterni. Io non sono né surrealista, né barocco, né cubista e neanche altre cose di questo genere. Io col mio nuovo vengo da qualcosa che è molto antico. E poi, in fondo, l'arte non fa che ricominciare. All'inizio del secolo scorso, tanto quanto oggi, conta sapersi vendere per vendere. Certo, ancora non si chiama marketing, ma le pubbliche relazioni già si fanno e come. Brancusch, originale ed esotico, in un mondo ancora neanche lontanamente globalizzato, lo sa bene. In gran parte per piacere e un poco per convenienza, intavola relazioni con tutti quelli che stanno facendo di Parigi il centro nevralgico dell'arte e della letteratura. Tra questi c'è il giovane Modi, che da poco riesce a sbarcare il lunario grazie al suo mercante, ma che dal rumeno incline alla schiettezza avrà moltissimo da imparare. Well, it's been a long time, long time now, since I've seen you smile. And I gamble away my fright, and I'll gamble away my time. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo in piena Belle Époque e Parigi sta vivendo i suoi anni folli tra i caffè sulla Seine, le notti al Moulin Rouge e la frenesia delle nuove scoperte tecnologiche. Montparnasse ora è il cuore pulsante della città, perché è qui che vivono e si incontrano molti dei più grandi intellettuali del tempo, scrittori, poeti, musicisti, pittori e scultori. Ed è proprio uno scultore, Constantin Brancusch, un genio arrivato da poco dalla Bulgaria per frequentare l'Accademia, che poi ha deciso di fermarsi perché ha cominciato ad essere apprezzato prima nell'ambiente e poi anche dalla critica. La semplicità non è un fine dell'arte, ma si arriva alla semplicità malgrado se stessi, avvicinandosi al senso reale delle cose. La semplicità è la complessità stessa. Ti devi nutrire della sua essenza per comprenderne il valore. Davanti al suo atelier adesso, dove si sta dedicando a sculture dal gusto primitivo che esaltano le forme essenziali, ci sono due giovani. Il primo è Paul Guillaume, ambizioso e sveglio mercante d'arte. Il secondo è Amedeo Modigliani, eccentrico e sfortunato pittore italiano che da sempre sogna di darsi anche alla scultura, ma che mai ha trovato la forza di farlo. All'inizio del mio percorso ci avevo provato, ma le polveri sottili mi facevano male e avevo paura di ammalarmi. Ma sentivo che il desiderio non era mai morto veramente. Mi serviva soltanto una spinta, uno stimolo, qualcuno che mi incoraggiasse. Di fronte al tavolo pieno di creta, con in mano un taglierino che gli ha dato Brancusch e la lingua che non smette di tirare fuori suggestioni, Modigliani sta finalmente trovando la spinta che gli serviva per gettarsi nella scultura. Ha sempre voluto farlo, ma prima dell'incontro con Brancusch era rimasto un sogno nel cassetto. Adesso invece torna tutti i giorni a sentire i consigli del maestro, a farsi illuminare su come tornire con una semplicità che dice tutto. Modi si getta anima e corpo nella scultura usando diversi materiali, prima la pietra e poi il legno. Ripete in continuazione che tre sono i fondamenti della sua evoluzione artistica: la sezione egizia al Louvre, la mostra temporanea di arte etnografica al Trocadéro e soprattutto la conoscenza con Constantin Brancusch. È lui che gli insegna il procedimento di lavorazione a levare, che lo sostiene nelle sue sperimentazioni e che non smette di credere in lui anche quando il suo morale è a terra. Attraverso la scultura, Modi si sente finalmente completo, perché aggiunge alla sua esperienza quello che ha sempre pensato mancasse. Se l'entusiasmo è infinito, i soldi sono sempre pochi. Modi non può permettersi di comprare i blocchi di materiale e quindi cerca di arrangiarsi con episodi che passano di bocca in bocca e fanno il giro di Parigi, entrando così nella leggenda. Brancusch e Modigliani, insieme ad altri amici, di notte scendono nei cantieri della nascente metropolitana e rubano la preziosissima pietra per scolpirla. Ci divertivamo come matti. A volte eravamo ubriachi, drogati, non ci rendevamo neanche conto del pericolo che stavamo correndo, ma era bellissimo, emozionante, e poi in fondo ci serviva per sopravvivere. Ho detour d'un regard, entre le lignes, entre les mots et sous le phare, d'un serment maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Brancusch è proiettato nel grande mondo dell'arte. Nel 1913 espone 5 sue sculture alla mostra dell'Harmony Show di New York. E l'anno dopo Alfred Stieglitz allestisce la sua prima personale, sempre nella Grande Mela. Non si considera membro di un movimento artistico organizzato, anche se ha contatti con tutti. Dal suo incontro con Modigliani impara che in fondo, al di là dell'arte, è la vita vissuta giorno per giorno ciò che più conta. Nel 1926 Brancusch è protagonista di una curiosa vicenda giudiziaria. Sbarcato a New York dalla nave Paris con l'amico Marcel Duchamp, fa per dirigersi alla galleria d'avanguardia Brummer, ma un funzionario della dogana, tale signor Crack, apre la cassa e scopre, tra le altre cose del bagaglio, un oggetto di bronzo lucido su una base di metallo. Si tratta di Bird in Space, una scultura che Brancusch è pronto a esporre. Ma poiché il doganiere non riesce a vederci l'essenza del volo, classifica l'oggetto come utensile da cucina. Per le opere d'arte ci sarebbe l'esenzione. Invece Brancusch, nonostante le proteste di Duchamp, è costretto a pagare per legge il dazio per l'importazione. Inizia il processo Brancusch contro gli Stati Uniti e alla fine una sentenza gli dà ragione, dando lustro all'opera più di qualsiasi pubblicità. Il doganiere Crack non ritratta, anzi dice che se Brancusch è un artista allora lui fa il muratore. In qualche modo quello che si legge negli atti non è altro che un discorso sull'arte contemporanea. L'oggetto considerato è bello e dal profilo simmetrico, e se qualche difficoltà può esserci ad associarlo ad un uccello, tuttavia è piacevole da guardare e molto decorativo, ed è inoltre evidente che si tratti di una produzione originale di uno scultore professionale. Accogliamo un reclamo e stabiliamo che l'oggetto sia duty free. Che abbiamo o no simpatia per le idee nuove e quelli che le rappresentano, pensiamo che la loro esistenza e la loro influenza nel mondo vada presa in considerazione. Anche Modi, suo malgrado, è protagonista di un caso datato 1984. Tre ragazzi livornesi, di spirito goliardico, più per celebrare il loro concittadino che con l'intenzione di infamarne il ricordo, inscenano un finto ritrovamento di sculture che getta scompiglio nel mondo dell'arte. Ma alla fine, beffa a parte, i conti tornano. Nell'arco di 14 anni, Modi ha realizzato quasi 400 dipinti, tantissimi disegni di cui si è perso il conto e una ventina di sculture, di cui soltanto 3 sono giunte allo stato definitivo della patina sotto l'occhio attento dell'amico Brancusch. La scultura, per colpa della sua salute cagionevole, è stata soltanto una parentesi, ma Brancusch gli ha permesso di ricordarsi per sempre di un periodo magico della sua vita. Al 1917 risale la sua prima grande mostra personale nella galleria di Beatrice Whale e nel 1919 alla Hill Gallery di Londra espone 10 tele. Ogni tanto, grazie alla ricerca incessante degli studiosi, viene alla luce qualche opera originale dell'artista maledetto che ha chiuso la sua vita povero e disperato. Modigliani si spegne il 24 gennaio 1920 e al suo funerale ci sono tutti gli amici che lo piangono. Ha avuto da un amante un bambino che non ha mai riconosciuto e un altro dalla sua amatissima Jeanne Heybutern, artista in erba la cui dedizione non è bastata a evitare l'abuso di alcol. Jeanne, ti faccio le mie più sincere condoglianze. Mi dispiace. Non posso neanche immaginare come ti senti. Lo sai come mi sento? Pablo, lo vuoi sapere? Mi sento niente. Ho un bambino nella pancia. Un altro cuore che batte. Un'altra anima che soffre. E io sono vuota come il tuo bicchiere. Ti ricordi, Pablo? Quel giorno che sono venuta da te e mi hai fatto il ritratto. Quella sera tu volevi rendermi immortale. Non so se ci riuscirai, però sappi che solamente Modigliani ha saputo ritrarre la mia anima. La notte del 25 gennaio, Jeanne, al 9° mese di gravidanza, non sopporta di avere perso il suo Amedeo e si getta da una finestra del 5° piano. Il film Modigliani, i colori dell'anima, diretto da Mick Davis nel 2004, racconta la loro storia. Sono qui. Oh,